भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Omaggio al Buddha, benedetto, nobile e completamente illuminatosi da solo. Ricomincia. Okay. Just to reinforce something I said earlier. Per rinforzare qualcosa che è stato detto prima. I knew somebody who had been a nun for a very long time. Conoscevo una persona che era stata una monaca per lungo tempo. And she left the order. Lasciò l'ordine. And a few years later had a very severe grief. E dopo qualche anno ha avuto un dolore molto profondo. And she went to a type of therapy called focusing. Andò in una terapia che si chiama focusing. Mm. So when I met her, I said, why did you have to go to therapy? E quando la incontrai le chiesi, perché sei andata in terapia? I said, surely the Vipassana, would have helped you through that process. E le dissi ancora che sicuramente la Vipassana ti avrebbe aiutato attraversare questo processo. Mm. And she said that really they were only taught or reinforced to see impermanence and not self. They were only taught to see impermanence and not self. Lei disse che gli era stato insegnato di guardare solamente l'impermanenza e il non sé. Now I can't remember who the author was, but he called it emotional bypassing. Non mi ricordo chi era l'autore, ma lui lo chiamava emotional. You know when a road goes round a sì, deviazione emozionale. Ah. So you have to be quite careful when an emotion comes up. Bisogna essere molto attenti quando un'emozione sale. Remember, your first position is to distance yourself from it. E ricordate, la vostra posizione è di distanziarsi da questa. And if you use a noting word, that really helps. E aiuta molto usare le parole di annotazione. So you say anxiety, you see. Puntandoci, dici ansia. Mm. And then you note your reaction. E poi noti la tua reazione. See? And you stay right there. E stai proprio lì. See, observing that connection. Osservando questa connessione. So sometimes you might be more aware of your aversion, wanting not to see it. E a volte puoi essere più cosciente della tua avversione, di non voler vedere. Mm. But you have to be patient, you have to wait till this reaction dies away. E devi essere paziente fino a che questa reazione se ne va. Now, this is undermining a habit we have of not bearing with suffering. Questo è indebolire un'abitudine che noi abbiamo di non voler vedere la sofferenza. Ah, so we're actually growing in patience. Quindi accrescere la pazienza. See? Now, when that's gone, you see, the meditator might then be so distant that they observe the impermanent process, the transient process. Um, uh, quando la reazione se n'è andata, si può essere a una distanza tale che si può osservare il processo che è impermanente e quindi se ne va. And you might also be very clearly aware of the separation of the knowing from the known. E puoi essere anche chiaramente conscio della differenza tra colui che conosce e il conosciuto. Eh? Ciò che è conosciuto. Yeah? Is everybody with me there? Ci siete? Sì, sì. Yes. If you're not certain, don't worry. Se non siete certi, non vi preoccupate. This clarity will come in time. La chiarezza verrà a suo tempo. Ah. So then you see, by doing that, you're not actually intimately feeling the emotional state. Allora, facendo questo, non stiamo sentendo in modo intimo lo stato emozionale. And that means that the heart cannot express its turbulence. E questo significa che il cuore non può esprimere la sua turbolenza. Ah, so it remains subtly suppressed. E rimane sottilmente soppresso. Ah, so you say, not me, not mine, you see. Perché tu dici, non è mio, non sono io, non è mio. Ah? But once that position is stabilized, ma una volta che questa posizione è stabilizzata, then you go into that feeling. Allora devi entrare dentro questa sensazione. Now, when we do that, sometimes the emotional state comes up even faster. Even faster. Quando lo facciamo, questo stato emozionale a volte sale anche più velocemente. Ah, because we are in a way saying to the heart, what do you want to say to me? Perché in un certo senso stiamo dicendo al cuore, che cosa mi vuoi dire? And remember, the heart speaks in feelings. E ricordate che il cuore parla attraverso le emozioni. So if that happens and it's overwhelming, then you just stop the meditation. Se questo succede e vi sopraffa, bisogna fermare la meditazione. Ah, you can go for a little walk or something. E potete andare a fare una piccola camminata. Ah. Sometimes for a beginner this can be quite shocking. Per un principiante a volte questo può essere scioccante. Ah, and they run for it. Scappano. E scappano via da questo. Ah, sì. So this is a shame. È un peccato. Because then this person has in mind a certain fear of the meditation. Perché a questa persona gli rimane in testa una certa paura della meditazione. Ah, and so they tend not to go there again. E tendono a non rientrarci. Ah? So if something comes up very violently for you, some fear, some great grief. E quindi se arriva qualcosa violentemente, come una paura o un gran dolore, Just relax, you know, take a little walk. Rilassatevi, fatevi una camminata. Ah, sì. And you can always approach one of us, you see. Sì, o venite a dirlo a qualcuno degli insegnanti. For comfort. Per essere confortati. Sì. Ok, enough. È abbastanza. Sì. So this evening it's really an opportunity to investigate these factors of enlightenment. Stasera c'è un'opportunità di investigare i fattori dell'illuminazione. And the spiritual faculties. E le facoltà spirituali. So now these spiritual faculties are what you might say are your basic ground of the spiritual life. Le facoltà spirituali sono il terreno di base della vita spirituale. Ah. So the first one is confidence. La prima è la fiducia. And then there's concentration. Poi concentrazione. Awareness. Consapevolezza. Effort. impegno, and wisdom or insight. E saggezza o intuizione profonda. Mm. So your spiritual life has to have these five basic qualities. La vostra vita spirituale deve avere queste cinque qualità di base. Now some of these are included in the seven factors of enlightenment. In qualche modo sono incluse nei sette fattori dell'illuminazione. And they run with awareness first. E questi vanno con per prima la consapevolezza. And then they run in pairs, the one balancing the other. E poi sono appaiati in modo che uno bilancia l'altro. So there's concentration and effort. E quindi c'è la concentrazione e l'effort, io traduco come impegno, alla lettera no, sarebbe sforzo. Quello che di solito viene tradotto retto sforzo, però sforzo è brutto. Energia. Cioè in questo, sforzo. Comunque. It's about the translation. That's right. Yes. That's sforzo, right. Energia, dipende. Sforza, is it? And then there's interest and calmness. Interesse e calma. Yes, sometimes you find the word joy translated, this word piti translated as joy. Piti a volte si trova tradotto come gioia. But it's the joy of curiosity. È la gioia della curiosità. Mm. And then there's investigation with equanimity. E poi investigazione e con l'equanimità. Sì. So if we go back to the beginning now and recognize the importance of confidence. Allora, torniamo all'inizio e riconosciamo l'importanza della confidence, yeah. Della fiducia. All these qualities really are to do with ordinary daily life. Tutte queste qualità hanno in realtà a che vedere con la vita quotidiana. But when we turn them towards investigating the Dharma, then they become ways in which they have a spiritual meaning. Ma quando si va a investigare il Dhamma assumono un significato spirituale. Mm. So confidence is necessary in anything we undertake. La fiducia è necessaria in qualsiasi cosa che noi intraprendiamo. You know, even in a relationship, if you don't have confidence in the other person, then you don't commit. Anche in una relazione, se non c'hai fiducia nell'altra persona, non ti impegni. Ah, if you don't have confidence in yourself to do the work that you've applied for, then you won't take it. Se non hai fiducia in te stesso che potrai fare il lavoro per cui hai fatto domanda, e non lo prenderai questo lavoro. Ah, so somehow we have to raise this confidence. In qualche modo dobbiamo incrementare questa fiducia. Fiducia. And one part is intellectual. Una parte è intellettuale. So when most of you heard about Buddhism and it drew your interest. Quando la maggioranza di voi ha sentito parlare del buddismo, questo ha mosso il suo interesse. Yeah, either Buddhism or meditation or something. Sì, buddismo o meditazione o qualcosa del genere. And then as you read about it, this knowledge becomes your own personal intellectual knowledge. E poi si legge qualcosa e questa conoscenza diventa la propria personale conoscenza intellettuale. Mm. But it really isn't a profound knowledge until you've experienced it for yourself. Ma questa conoscenza non è profound. Se non è profonda fino a che non si fa esperienza personale. So it's through this meditation that the faith becomes the confidence becomes more strong. È attraverso la meditazione che questa fiducia diventa più forte. And when we have an insight, a deep insight, which we call entering the path and entering the stream. Quando abbiamo un insight profondo, è quello che chiamiamo entrare nella corrente. Then this confidence becomes unshakable. Allora questa fiducia diventa inamovibile. Ah, because you've experienced what the Buddha experienced. Perché avete fatto la stessa esperienza del Buddha. So you can't deny your experience. E non potete negare la vostra stessa esperienza. Only in certain circumstances where somebody is holding a gun to your head. Solo in alcune circostanze se c'è qualcuno che vi punta la pistola alla testa. In which case you might lack the courage. In quel caso vi potrebbe mancare il coraggio. But inside of you, the confidence will be unshakable. Ma dentro di voi questa fiducia è inamovibile. So there's a relationship there. The other side is, of course, the heart, some sort of connection with a devotional practice. E l'altro lato è una connessione con una pratica devozionale. This is not absolutely necessary for some people. Questa per alcune persone non è assolutamente necessaria. But recollecting the life of the Buddha, etc., connects your heart with the tradition. Ma ad esempio ricordare le vite del Buddha connette il vostro cuore con la pratica. Yes. Con la tradizione. Con la tradizione, sì. Tradizione. When we do the bowing in the morning, you see, that's a way of committing the heart, you see. E anche quando facciamo gli inchini la mattina è un modo di impegnare il cuore. So that gives a little bit of juice to the practice. Eh? Questo dà un po' di sugo alla pratica. So these two work off each other, the confidence and the knowledge and the understanding and the devotion. Faith, knowledge and devotion. They feed each other. Dunque queste cose si nutrono l'un l'altra, quindi la fiducia, la devozione and faith, knowledge. È la conoscenza. Thank you. Now understanding this, there's a word panya which refers both to wisdom but both to the active side of insight. Allora c'è la parola panya che si può intendere come saggezza o come il lato attivo dell'insight, dell'intuizione. Yes, and when this is activated, the insight is activated, remember, this also feeds back into our confidence. Intuitive grasp of things. Ah, quando c'è quando si capiscono le cose profondamente con l'intuizione. Ah, ecco. This feeds back. Ecco, c'è un feedback positivo su. Yeah. C'è un ritorno positivo su. On the faith, confidence. Sulla fiducia. So, and this is true also of the teacher, a relationship that we have with our teachers. E questo è vero anche per la relazione che abbiamo con i maestri. Ah, so it's never one of just blind belief. Non è mai una fede cieca. Ah, it's a case of taking the instructions and trying them. Il caso invece di prendere le istruzioni e provarle. If they don't work, find another teacher. E se non funziona, si Very trova simple. Un altro maestro. But you have to give them a chance. Ma gli dovete dare una possibilità. And then there's yourself, of course. That's often a place where we lack confidence. E poi dentro di voi c'è anche il posto dove può mancare la fiducia. So this is overcome by just accepting where we are. E questo è superato accettando quello che siamo. If you compare yourself with others, it's a disaster. No, se facciamo la comparazione tra noi e gli altri è sempre un disastro. Everybody sits more quietly, more still, longer. Chiunque sta seduto più quietamente, più fermo e più a lungo. Abandon comparison. E quindi abbandonate le comparazioni. So this connects these three things: the confidence, the understanding and devotion, and the insight we get in vipassana. Allora c'è la connessione fra queste tre cose. Confidence, la fiducia, with the understanding and con devotion, con la comprensione e la devozione, and the insight, e l'insight, which is the process of the seven factors of enlightenment. Che è il processo dei sette fattori dell'illuminazione. So when we're sitting like this, quality of curiosity has to be really quite heightened. It has to be very bright. Quando noi stiamo seduti in meditazione, la qualità della curiosità deve essere molto prominente. And you can raise that, you see, raise the interest in it. E si può aumentare l'interesse in questa. So, for instance, if you were to say to somebody, I've been sitting watching my breath. Se voi dite, io sto seduto e guardo il mio respiro. They might think, well, this is the most ridiculous thing I've ever heard of. E la gente può pensare che è la cosa più ridicola che abbia mai sentito dire. And even we ourselves begin to get bored. E anche noi stessi cominciamo ad annoiarci. So where does this boredom come from? Da dove viene questa noia? So it's coming from some idea that we should be seeing something. La noia viene da qualche idea che noi dovremmo vedere qualcosa. So be careful when you're watching the breath and you're getting bored, turn your attention towards the boredom. E quindi state attenti, quando guardate il respiro e vi annoiate, allora spostate l'attenzione sulla noia. And then come back to the breath and really keep asking the question, am I seeing this as it really is? E poi tornate sul respiro e chiedetevi, lo sto vedendo veramente com'è in realtà? Remember that the mind is always creating a conceptual universe for us. Ricordate che la mente sempre crea un universo concettuale per noi. It's always connecting things, putting things together. La mente connette le cose, le mette insieme. Whereas our process is to deconstruct, to pull it apart. Mentre il nostro processo è all'opposto di decostruire e farle a pezzi. So when you're watching the breath, there are three things there. Quando si guarda il respiro, ci sono tre cose. First of all, you can see that you have some idea in your head as to where the breath is. You have a picture of your abdomen. Prima potete vedere che avete qualche idea nella mente di dov'è il respiro, ad esempio nell'addome. And then we have the idea that something is rising and falling. E poi abbiamo l'idea che c'è qualcosa che sale e scende. So these two are being manufactured by the mind. Queste due cose sono costruite dalla mente. Which gives us a sense of place or space and time. Che ci dà il senso di posto, di spazio e di tempo. So this is a mental concoction. È una costruzione della mente. So how do we get right down to the direct perception of the breath, of the sensations of the breath? Allora, come si arriva dentro alla vera percezione del respiro? It is by continuously focusing in right there on the center of the breath. E si fa focalizzandosi continuamente proprio lì al centro del respiro. Ah, so if you're watching the breath at the abdomen, that's quite a big area. Quindi se guardate il respiro nell'addome è un'area piuttosto grande. But if you look carefully, you'll see that there's a center point. E se guardate attentamente vedrete che c'è un punto centrale. So it's a case of really driving your attention there. E quindi è il caso di portare l'attenzione dritta lì dentro. And not expecting anything. E senza aspettarsi niente. Just this very, very childlike way of gazing, just looking. È questo modo molto, molto infantile di guardare alle cose. But behind it is this very, very, very, very strong question mark. Ma dietro di questo c'è un punto interrogativo molto grande. A sense of a real sense of curiosity. Un vero senso di curiosità. Am I seeing this breath as it is, or as my mind wants me to see it? Sto veramente guardando questo respiro così com'è, o è la mia mente che lo sta creando? As we penetrate the breath, then we begin to see its true nature. Come si penetra, nel momento in cui si penetra il respiro, cominciamo a vedere la sua vera natura. So I'm hoping that at interview you'll be able to tell me what that is. Che spero che ai colloqui voi mi direte che cos'è. This same process is with anything that we're experiencing. Allora, lo stesso processo è per qualsiasi cosa di cui noi facciamo esperienza. When we're hearing something. Anche quando quando udiamo qualcosa. See, now we know that a note, a single sound of one note, can only be hitting the ear at any one particular moment. Allora, sappiamo che il suono singolo di una nota può colpire il nostro orecchio in un momento particolare, o solamente in un momento particolare. But yet we can hear a tune as a progress. Tuttavia, possiamo sentire una melodia come un progresso. So you can see that the mind is constantly creating the world we're living in. E quindi vedete che la mente costantemente crea il mondo in cui viviamo. Because from moment to moment all there is an air pressure against the eardrum. Perché momento per momento quello che c'è è pressione dell'aria contro il timpano. One thing you can do when you're listening to something, especially a sound which is fairly constant. Una cosa che potete fare quando ascoltate qualcosa, specialmente un suono costante. So for instance, if you're meditating at home and you can hear the traffic. State a casa a meditare, c'è il traffico. E potete sentire il traffico. See, don't see it as a hindrance. Non guardatelo come se fosse un impedimento. Just ask yourself, what is the process of hearing? Chiedetevi, qual è il processo dell'ascoltare? Because there's a whole process of mentation before you can actually recognize the sound. Perché c'è tutto un processo mentale prima che si riconosca il suono. So this is that sense of curiosity, and it has to be balanced with a certain calmness. Questo è il senso di curiosità e deve essere bilanciato con una certa calma. Now, if the curiosity is already seeking something, you see, then the calmness will begin to disappear and you'll start getting restless. Allora, se la curiosità sta già cercando qualcosa, scomparirà la calma e si diventerà agitati. And on the other hand, if the calmness becomes greater than that sense of curiosity, that's when you fall asleep. E invece dall'altro lato, se la calma diventa più grande del senso di curiosità, lì è che si cade addormentati. Ah, so now, you know, for somebody... for somebody who's just beginning the practice, this might be a little bit, you know, difficult to grasp. E per qualcuno che ha appena iniziato la pratica, questo può essere un po' difficile da afferrare. But don't worry about it. Ma non vi preoccupate. Because as you practice, you begin to recognize these things. E via via che si pratica, si cominciano a riconoscere queste cose. Yeah. Now the other quality is concentration. L'altra qualità è la concentrazione. This is the ability of that attention, of that awareness to focus on something. Questa è l'abilità di focalizzarsi su qualcosa. And in order to do that it needs a certain effort. E per farlo ci vuole un certo sforzo. So even when you're you know taking a photograph, you know, the camera has to have an energy in it to focus. Anche quando fate una fotografia, la fotocamera deve avere un'energia dentro per mettere a fuoco. And when you're using binoculars, you have to have some energy to focus. Anche quando usate il binocolo, bisogna avere un po' di energia per fare mettere a fuoco. So this focusing really draws all the energy of the mind onto a single point. Allora, questa focalizzazione porta tutta l'energia della mente in un singolo punto. And another word in the Pali for concentration is ekagata. Ekagata. Which means going one way. E la parola Pali per questa concentrazione è ekagata, che significa l'energia che si tutto in un punto. So the danger here is that the concentration is driven by some desire to see something. E il pericolo qui è che la concentrazione può essere spinta dal desiderio di voler vedere qualcosa. And then you'll find yourself becoming quite restless, quite tight. E allora si diventa piuttosto agitati. And you may even find that your whole meditation just collapses. E si può anche succedere che c'è un collasso di tutta la meditazione. Yeah, and you have to sort of take a long walk and then begin again. E avete a questo punto dovete farvi una lunga camminata e poi ricominciare. Because there's just too much effort. Perché c'è troppo sforzo. And of course if the concentration is good and the effort drops a little bit. Se la concentrazione è buona e lo sforzo scende un pochino. Then the meditator remains in a very correct posture. Allora il meditatore rimane in una posizione corretta. So that to anybody outside they would think, oh, now there's a meditator. E visto da fuori tutti dicono, ah, ecco uno che medita. But actually he's unconscious. Ma in realtà è incosciente. And nothing is to be gained from that type of... E da questo tipo di meditazione non si ottiene niente. It's often something that people experience when they try to practice these absorptions. È qualcosa che le persone ne fanno esperienza quando cercano di praticare gli assorbimenti. In fact, there's a story about a Hindu sadhu. C'è una storia di un sadhu hindu. Who asked for some water. Che chiese dell'acqua. And then he went into this meditation and he was in that state of concentrated oblivion for 10 years. E poi chiese l'acqua, entrò in meditazione ed entrò in uno stato di oblio, di concentrazione fino all'oblio per 10 anni. Or more, who knows? O forse più. And when he woke up, e quando si svegliò, his first words were, "Where's the water?" E lui disse, "Dov'è l'acqua?" So this is even for those of you who know, even in St. John of the Cross, in his work, he warns people against that sort of oblivion. Anche nelle parole di San Giovanni della Croce che dice di stare attenti a questo tipo di oblio. But even so, it's a good sign to the meditator that, you know, their concentration is really very good. It's a good? Yeah, it's a good sign because it shows their concentration is good. The effort is missing, but their concentration is good. Allora, comunque la concentrazione è, in sintesi, mi pare di aver capito che lui dice che la concentrazione è comunque una buona cosa, se c'è. Is it right? È un segno di una buona... Ah, un segno, sì. Mm. Sì? Capito? Even so, it's a good sign to the meditator that their concentration is good. Allora, è un buon segno per chi medita se la concentrazione è buona. Mm. But what's missing, of course, is the right effort. What's missing is right effort. Quello che manca è il retto sforzo. Chiamiamolo così. So here we have this effort of looking closely, the concentration. Allora, abbiamo questo sforzo di guardare più da vicino. Mm. And the effort needed to keep it there, sustain it. E lo sforzo che è necessario per sostenere questa cosa. Stamina. Stamina. Stamina. La capacità di farlo per lungo. Sì. Stamina? È lo stesso. Sì? Sì. You know, what do you use? È una parola latina di cui non saprei. It doesn't matter. Non importa. It's just the ability to continue. È l'abilità di mantenere questa cosa a lungo. And this comes with practice. E questa viene con la pratica. It's just like pumping iron, you know? È come alzare i pesi. If you want big muscles, you just keep pumping iron. E se vi volete fare i muscoli, dovete pompare il ferro. You got these two, and then there comes this sense of curiosity, which is balanced with the calmness. E c'è sempre questo senso di curiosità che si bilancia con la calma. And then you have this investigation, which has to have this equanimity. E c'è l'investigazione e ci deve essere l'equanimità. Now, you'll see that all these qualities are just natural to us. Vedete che queste qualità sono cose naturali per noi. When you're doing something carefully, when you're doing a job carefully. Quando state facendo con attenzione un lavoro. So you have awareness, you have effort, you have concentration, you have curiosity and interest. Avete la consapevolezza, lo sforzo, la concentrazione, la curiosità. And you're calm usually, unless you're stressed. Di solito, almeno che non ci sia uno stress, siete calmi. So all these are natural qualities that we have. Sono quindi tutte qualità naturali che abbiamo. So what turns these towards factors of enlightenment is what it is we're investigating. Allora, quello che li fa diventare fattori di illuminazione è il che cosa viene investigato. And this is various things, for instance, the hindrances. Ad esempio, gli ostacoli. But really the core of our insight is in the three characteristics of existence. Allora, il cuore della nostra intuizione è le tre caratteristiche dell'esistenza. So these are based on the idea of some eternal soul. Based on the idea of some eternal soul. Anima. Questo è basato sull'idea di qualche tipo di anima. Eternal soul. Eterna. Eternal. So the Buddha's saying, the Buddha's asking us, if we have an eternal soul, right? Il Buddha ci chiede, se noi abbiamo un'anima eterna, What can it be? Che può essere, come può essere? So the first thing he asks us to look at is impermanence. E lui ci chiede di guardare all'impermanenza come prima cosa. An eternal soul, by definition, can't be changing. Un'anima eterna, per definizione, non può essere una cosa che cambia. And in Buddhist psychology, everything is arising and passing away, very, very minutely. E nella psicologia buddista tutto insorge e svanisce. So that's what we're looking. We're saying, well, you know, feelings, sensations in the body, emotions, thoughts—they're all arising and passing away. So they can't be my eternal soul. Allora, noi vediamo che emozioni, sensazioni. Tutto pensieri, tutto insorge e passa via, quindi non può essere l'anima eterna. And then he says, well, surely if this eternal soul exists, it must be in charge of itself. It must have power over itself. Allora, se questa, dice il Buddha, se questa anima eterna esiste, deve avere un potere su se stessa, deve essere in comando di se stessa. But what we find in meditation is that the body just offers sensations, pain. Ma quello che troviamo nella meditazione è che il corpo ci offre le sensazioni, il dolore. And the heart seems to have its own life. The heart, emotions. Sì, il cuore ha la sua propria vita, le emozioni. And the head is mad. E la testa è pazza. So how can it be that? Quindi come può essere ciò? You see? And then there comes this whole problem of suffering. E poi si arriva al problema della sofferenza. If this my soul, my eternal soul should be able to say, I am no longer going to suffer, and that be the end of it. Allora, la mia anima eterna dovrebbe essere in grado di dire, io non devo soffrire più, e questa dovrebbe essere la fine della sofferenza. But the suffering keeps coming. Ma invece la sofferenza continua ad arrivare. So this is a big problem, E quindi è un grosso problema. We want to believe in something eternal, but where is it? Can it be within this psychophysical organism? Noi vogliamo credere in qualcosa di eterno, ma dov'è? In un organismo psicofisico. So now, here we come to the dilemma that the Buddha found himself. E qui si arriva al dilemma che il Buddha scoprì. Because he says that there is something which is not born, not created, not conditioned. Perché lui dice che c'è qualcosa di is not born, non nato, non creato, non condizionato. Not conditioned. But he doesn't want to give it a name. Ma lui non ci vuole dare un nome. Because if he gives it a name, then people have a construct, a mental construct of it. Perché se ci dà il nome, le persone ne fanno un costrutto mentale di and questo. And they go chasing this construct, which would only lead to a further delusion. E vanno in cerca di questo costrutto, e questo li porterebbe ad un'ulteriore illusione. I had a student once who had an amazing experience while sitting on the toilet. Ho avuto uno studente che ha avuto un'esperienza fantastica mentre era seduto al gabinetto. And he said to me that this was Nibbana. E lui mi disse, questo era il Nibbana. So I said, well, what was it like? E io gli chiesi, com'era fatto? And he described it as a really, beautiful feeling, a sort of lifting of the heart, an opening up, and an amazing state of grace. Allora lui l'ha descritto come una bellissima esperienza di di grazia e di il cuore che si innalza. And I said, well, were you aware of it? E lui gli ha chiesto, ma eri consapevole di questo? I said, he said yes. Lui disse sì. I said, well, it can't be that. Allora dice, lui disse, non può essere allora. If you're aware of something, it can't be you. Se tu eri consapevole di qualcosa, non poteva essere te. Yeah, but he didn't believe me. He still thinks he's fully liberated. Ma lui non ci ha creduto e ancora pensa che era quello. So this is something in him which is thinking Nibbana is something like this, you see. E c'è qualcosa in lui che pensa che il Nibbana è fatto in quel modo. Ah, and so when he has an experience that he thinks Nibbana is, he then deludes himself to thinking that yes, this is Nibbana. E quando ha avuto un'esperienza che è quella che lui pensa che sia il Nibbana, allora lui entra in questa illusione del Nibbana. Yeah. So how, you see, the Buddha is trying not to conceptualize this particular faculty which is experiencing Nibbana. Il Buddha cerca di non concettualizzare questa particolare facoltà che è quella di fare esperienza del Nibbana. So he keeps his descriptions mainly to what Nibbana is. Keeps his descriptions to the experience of Nibbana. Ah, lui mantiene la sua descrizione solamente per l'esperienza del Nibbana. And although he has many positive adjectives like the greatest happiness, peace and all that. Ci sono molti aggettivi positivi come la più grande felicità. He also says that it's not describable. E lui dice anche che non è descrivibile. Ah. So you can see that our tendency is to have some idea and then to try and manifest that idea. E vedete come la nostra tendenza è quella di avere un'idea e poi cercare di manifestarla. Ah, so in that case he takes us away from Nibbana. E in quel caso questo ci porta via dal Nibbana. And he makes us look at and deconstruct what we're actually experiencing. He makes us look at the Buddha. Yeah. Ah. And deconstruct what we're actually. Allora il Buddha ci fa guardare e decostruire la nostra esperienza. Yeah. And out of this deconstruction there arises that which is not constructed. E da questa decostruzione insorge ciò che non è un costrutto. Ecco. I'm making this very difficult. I know this is ridiculous. Io lo sto facendo un po' complicato. So that's why equanimity is important. E questo è il motivo per cui l'equanimità è importante. Yeah, so equanimity is that ability to come from a place of don't know. L'equanimità è l'abilità di guardare le cose da un posto di io non so. Ah, if not, the mind is then guided by a concept. E se non c'è, la mente viene guidata da un concetto. And this also includes biases, prejudice. E questo include anche i pregiudizi. Ah, any aversions or fears. E l'avversione, le paure. Even preference. E anche le preferenze. Ah? So that's why in our I meant to hand these out. Here we are. We'll give these out afterwards. Huh? That's why in this in the Vipassana guidelines, I've put here four different descriptions of awareness. Questo è il motivo per cui nella mia linea guida della Vipassana io ho messo Four descriptions of awareness. Ha messo quattro descrizioni della consapevolezza. Can you read that little that little square. From here. Yeah, actually, well, there's only English speakers, so I'll read it and then you can translate from there. Yeah. Okay. So, bear attentiveness, simply watching all that arises and passes away. Questa nuda attenzione, semplicemente osservando tutto ciò che sorge e svanisce. Choiceless awareness that does not control or manipulate. Questa consapevolezza senza scelta che non controlla né manipola. Impartial observation that does not judge or question. No therapy. Questa osservazione imparziale che non giudica né mette in discussione. This intuitive introspection, fully experiencing each physical, emotional and mental event as it is. Questa introspezione intuitiva che coglie pienamente ciascun evento fisico, emotivo e mentale così com'è veramente. Leads to the realization that everything is impermanent and insubstantial. And that to identify with or to become attached to anything whatsoever will bring dissatisfaction. E questo porta alla realizzazione che tutto è impermanente e inconsistente e che l'identificarsi o l'attaccarsi a qualsiasi cosa porterà insoddisfazione. Okay. So that's what this awareness is. Now, finally, how can the seven factors of enlightenment be there when there's a lot of emotion in the heart, when there's a lot of restlessness in the body or the mind? Come fanno a essere gli seven factors? Sì. E come fanno a trovarci quando c'è un sacco di agitazione nel cuore e nella mente? A restlessness in the heart, mind and body. Nel corpo, agitazione nel corpo. Yeah, and a lot of emotions. E molte emozioni dal cuore. Okay. So this is where the Buddha points out that when we access that observation post within ourselves. È qui che il Buddha dice che quando noi raggiungiamo questo punto di osservazione dentro di noi, all those faculties come back into the awareness. Tutte queste facoltà rientrano nella consapevolezza. This awareness, remember, has two qualities, a passive and an active. Questa awareness, questa consapevolezza, ha due qualità, una passiva e un'attiva. Yeah, the passive quality of receiving awareness. E la qualità passiva è di la consapevolezza che riceve. And that intuitive grasp which understands something immediately. E la afferrare intuitivamente e quindi immediatamente capire. Which is nothing to do with thought. Che non ha niente a che fare col pensiero. Although after an insight, this awareness uses thought to tell itself what it's just seen. Anche se dopo aver avuto un insight, questa awareness, questa consapevolezza, usa il pensiero per farci capire che cosa è successo. Sì? So you don't lose any of the seven factors of enlightenment when you are in the position clearly of the observer, the feeler, the one who knows. Quindi non si perde nessuno dei sette fattori dell'illuminazione quando si è nella posizione dell'osservatore, di colui che sente, di colui che sa. But at the beginning of your meditation you might want to establish those various qualities. Ma all'inizio della meditazione bisogna avere la volontà di stabilire queste qualità. That's why we use the breath, eh? E questo è il motivo per cui si usa il respiro. So it depends, 2 or 3 minutes, sometimes 5 or 10 minutes, when you feel the body becoming relaxed a bit more. Quindi dopo 2, 3, 5, 10 minuti, quando si comincia a sentire che il corpo si rilassa. And when you can feel a more steadiness of attention. E quando si può sentire una stabilità dell'attenzione. So then you're gathering these seven factors of enlightenment. In questo momento state riunendo questi sette fattori dell'illuminazione. And as soon as you feel that you have that steadiness, then you open up to whatever draws your attention. E come sentite che avete una stabilità, allora vi potete aprire a qualsiasi cosa che attira la vostra attenzione. Ah, sì, è così. This is it. That's it. Yes. Awareness passiva e attiva. La passiva è l'intuizione. No, la passiva no. È sati, awareness. Panya. Sati, panya. Così. In the discourse on how to establish sati. Nel discorso su come stabilire sati. Three words always come together. Ci sono tre parole che vengono sempre insieme. Atapi sampajano satima, which means real energy, real effort. Vera energia, vero sforzo. Intuitively. Intuitivamente. And mindfully. E consapevolmente. That recurs throughout the discourse. E questo ritorna più volte durante il discorso. Ecco. I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole vi abbiano aiutato. That I have not caused even greater confusion. E che io non vi abbia causato una maggiore confusione. That by your development of the seven factors of enlightenment. E che voi, con lo sviluppo dei sette fattori dell'illuminazione, you will be liberated from all suffering. Sarete liberati da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che dopo. Sadhu, sadhu. We have to practice. While I remember, can we hand these out? So these we might read tomorrow, but they're just there for your reflection.